class. And this is my 360 hello? Degree hello, presentation. Mr. My little Natalie. Hello. Hello. New Genius Theater member. Now we make a game. You marry me. Huh, jealous. 60 degree presentation. So he want me. And I met with okay, my friend. Make a jealous for me, please. One clap for me, please. Just one clap for me. Do you wanna fuck with my brain? Well, nobody wanna fuck. Can you hear me? You fuck my brain. Well, no wanna fuck. Can you hear me? I'm shot to four middle place, mother class. Put in a bag, me, please. Do you wanna fuck with my brain? Can you hear me? Where are going? Oh, you wanna take a flight for two, maybe? Mr. Maybe, baby? A flight for two for the White Island. I fly for two from a White Island. Started from the airport, my pizza. 40 February, 40 February, celebration. Teacher, can you tell me vacation? Teacher say, 360 degree visionaire. 360 degree visionaire. Teacher say, vacation? 360 degree visionaire. 360 degree visionaire. Hey teacher, we are in 2014. We are in the future, teacher. Hey. Hey, hey, hai detto qualcosa? Mi sento bene, vieni qua, ci vediamo dopo, in cortile, ciao. Oh, ci vediamo alla festa stasera, ciao. Ah, ti devo accompagnare? Ok, ci vediamo alla festa, ciao. Ciao. Ah, cosa? Ci vediamo alla festa, eh? Ah, vengo a casa tua? Ti passo a prendere? A che ora? Alle... Sei stato proprio matto. 10:30? Ok. Ci dorme dal Giulio? Va bene. Ciao. Ciao. Oh, non schiacciare su mi piace, mi raccomando. Non schiacciare su Miro. Mi raccomando, non schiacciare su mi piace. Oh, non fare. È contro la legge. È contro la legge. È proibito. Non schiacciare su come. Come hai detto, Fra? Scusa? Ultima parola? Lori. Lori. Lori. L'ha detto Lori. Lori. Sì, ok. Sì. Ok, ciao.